Europa 24. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati a questo appuntamento con Europa 24. Europa ed Expo, questo è il tema di cui ci occupiamo oggi. All'interno dell'esposizione universale, il padiglione comunitario ha organizzato nelle ultime settimane diversi incontri tematici sul futuro dell'alimentazione. Tra questi il Food Drink Europe Congress 2015, organizzato dall'Industria Europea dell'Alimentazione e dedicato al futuro del settore. Il congresso ha avviato in particolare una riflessione relativa al mercato interno dell'alimentare e delle bevande non alcoliche, con la costituzione di un gruppo di alto livello che dovrà tracciare la rotta. Ne parliamo oggi con Carlo Pettinelli, direttore per le tecnologie consumatori, ambiente e sanità presso la DG Mercato Interno della Commissione Europea, nonché sherpa della stessa Commissione all'interno del gruppo. Questo gruppo di alto livello non parte da niente, c'era già stato negli anni precedenti un gruppo di alto livello, anche se aveva un nome diverso, che aveva già incominciato a riflettere tutti insieme su quelle che sono le problematiche del settore alimentare e su come affrontarle. Il vantaggio di avere un gruppo di alto livello è che si riescono a mettere insieme tutti gli interlocutori, quindi l'industria, la società civile, qui intendo le associazioni ambientaliste, i rappresentanti dei consumatori, i rappresentanti delle piccole e medie imprese, metterli tutti insieme e poi cercare di fare la sintesi, trovare il punto di equilibrio per quelle che sono le esigenze di ciascuno. I temi sono quattro: le relazioni fra gli operatori economici del settore, la competitività del settore, il monitoraggio del prezzo dei beni e dei prodotti alimentari e la sostenibilità del settore nel quadro di quella che si chiama l'economia circolare, che è una nuova tendenza che dovrebbe risolvere vari problemi di sostenibilità dell'economia europea. Quali sono i problemi che poi hanno imposto anche un po' questa riflessione su queste quattro macro aree? I problemi essenzialmente sono da un lato la competitività dell'industria, perché ovviamente l'obiettivo principale della Commissione Juncker è di avere la crescita, perché la crescita in Europa è la sola che può dare il lavoro e quindi risolvere molti problemi non soltanto economici ma anche della società europea. Ma ovviamente questa crescita deve essere sostenibile, e sostenibile è una sostenibilità che si basa su tre pilastri: la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica. Quindi bisogna cercare di conciliare tutte queste esigenze in una strategia unica per permettere al settore di essere competitivo rispettando queste tre condizioni. Ecco, lei prima ha citato i quattro obiettivi di questo gruppo di alto livello che sta appunto per iniziare i propri lavori. Ci può citare quali ritiene veramente importanti e verso dove si vuole andare? Ma guardi, sono tutti importanti, perché un po', se mi permette, semplificare come le quattro stampe di un tavolo, quella è la più importante. Sono tutte e quattro, perché se ne toglie uno il tavolo cade. Perché le industrie devono essere competitive, ovviamente, perché altrimenti se non c'è competitività dell'industria non c'è sostenibilità economica nel tempo. Però ovviamente devono essere anche sostenibili, come dicevo, sostenibili sotto vari aspetti. Perché ovviamente le esigenze di sostenibilità di oggi non sono più quelle di tanti anni fa. Oggi ovviamente c'è l'ambiente, i requisiti ambientali che sono molto più esigenti di quelli che erano un tempo. Ci sono dei problemi di scarsità di materie prime, ci sono dei problemi di emissioni di gas a effetto serra che magari alcuni anni fa non c'erano, e quindi tutti questi problemi devono essere presi in conto. Quello che mi preme sottolineare appunto è che la sostenibilità ha vari aspetti, e questa mi preme la cosa più importante: non è soltanto una cosa ambientale, ma è una cosa anche economica e una cosa anche dal punto di vista della società, cioè deve essere sostenibile anche per la società. Quali sono i vantaggi di questo processo che state mettendo in atto, state iniziando per l'utente finale, che è il cittadino consumatore europeo nei suoi 28 stati? Per il cittadino europeo indubbiamente mettiamo a disposizione una gamma di prodotti molto più vasta, che sono tutti molto sicuri, e il cittadino europeo può scegliere liberamente quale comprare. Indubbiamente cercheremo di migliorare anche l'informazione, anche sull'etichettatura ci sarà forse del lavoro da fare, e il cittadino europeo potrà essere lui stesso che sceglie, sapendo che i prodotti sono tutti sicuri dal punto di vista alimentare, cosa preferisce comprare. Ed è tutto per questa puntata di Europa 24, un saluto, buon pomeriggio da Sergio Nava. Europa 24, collaborazione con Euronet Plus.